Ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. I 12 anni che seguirono quel triste periodo, continuò la signora Dean, furono i più felici della mia vita. I più grandi affanni che dovetti affrontare furono quelli causati dalle malattie di poco conto che la nostra signorina fece come tutti gli altri bambini, ricchi e poveri. Per il resto, dopo i primi 6 mesi, crebbe robusta come un larice e prima che l'erica fiorisse per la seconda volta sulla tomba della signora Linton, sapeva già camminare e perfino parlare a modo suo. Era la più incantevole creatura che mai abbia riportato il sole in una casa desolata, una vera bellezza, con i grandi occhi scuri degli Earnshaw, ma con la pelle chiara e i lineamenti delicati dei Linton e capelli biondi e ondulati. Era vivace, ma non scatenata, con un cuore sensibile e fin troppo fervido nei suoi affetti. Fin dall'età di 13 anni non era mai uscita da sola dai confini del parco. In rare occasioni il signor Linton la portava con sé per un miglio o due al di fuori, ma non la affidava a nessun altro. Per lei, Gimmerton era un puro semplice nome. La cappella, l'unico edificio a cui si fosse avvicinata o in cui fosse mai entrata, a parte casa sua. Per lei, Cime Tempestose e il signor Heathcliff non esistevano. Era una perfetta reclusa e all'apparenza del tutto felice. A dire il vero, qualche volta, osservando il paesaggio dalla finestra della sua stanza dei giochi, mi diceva: «Ellen, quanto tempo dovrà passare prima che possa salire sulla cima di quelle colline? Mi chiedo che cosa c'è dall'altra parte. C'è il mare?» «No, signorina Cathy», rispondevo, «ci sono altre colline proprio come queste. E che aspetto hanno quelle rocce dorate quando ci si arriva sotto?» chiese una volta. Lo scosceso pendio delle rocce di Penistone attraeva particolarmente la sua attenzione, soprattutto quando il sole al tramonto lo illuminava insieme con le cime più alte, mentre la distesa di terre circostanti era ormai immersa nell'ombra. Le spiegai che erano cumuli di nuda roccia, che contenevano appena abbastanza terra nelle loro fessure perché ci crescesse qualche albero striminzito. «Sono abbastanza grande adesso per andare alle rocce di Penistone?» La strada che portava lassù passava vicino a Cime Tempestose e così lei riceveva ogni volta la stessa risposta. «Non ancora, tesoro, non ancora. Ho già detto che la signora Heathcliff visse per circa 12 anni dopo aver lasciato il marito. La sua famiglia era di salute delicata. Né lei né Edgar avevano quella costituzione robusta che si incontra generalmente da queste parti. Non so di preciso quale fosse la sua ultima malattia. Immagino che siano morti entrambi dello stesso male, una specie di febbre, il cui decorso al principio è lento, ma incurabile, e verso la fine consuma rapidamente la vita. Isabella scrisse per informare il fratello del probabile esito di quel male di cui soffriva da 4 mesi e lo supplicò di raggiungerla, se poteva, perché aveva molte cose da sistemare e voleva dirgli addio e mettere il piccolo Linton al sicuro nelle sue mani. Sperava che al bambino sarebbe stato permesso di rimanere con lui, come era rimasto con lei. Era ansiosa di convincersi che il padre del ragazzo non desiderava assumersi l'onere del suo mantenimento e della sua educazione. Il mio padrone non esitò un attimo a soddisfare la richiesta di sua sorella, pur riluttante ad allontanarsi da casa. Questa volta si precipitò, raccomandando Catherine alla mia particolare vigilanza durante la sua assenza e ripetendo più volte l'ordine che non doveva uscire dal parco, neppure scortata da me. Non prese neanche in considerazione la possibilità che ci andasse da sola. Si era nel pieno di una magnifica estate e lei prese talmente gusto a questi vagabondaggi solitari che spesso faceva in modo di restare fuori dall'ora di colazione a quella del tè. E poi le serate erano dedicate ai suoi racconti fantasiosi. Non temevo che oltrepassassi i confini della proprietà, perché di solito i cancelli erano chiusi e ritenevo che anche se fossero stati spalancati non si sarebbe avventurata fuori da sola. Disgraziatamente la mia fiducia si rivelò mal riposta. Una mattina alle 8 Catherine venne da me e mi disse che quel giorno era un mercante arabo che avrebbe attraversato il deserto con la sua carovana, perciò dovevo darle provviste in abbondanza per sé e per gli animali, un cavallo e 3 cammelli, impersonati da un grosso segugio e da una coppia di pointer. Misi insieme una buona scorta di leccornie e le appesi a lato della sella, dentro un cesto. Lei montò, allegra come un folletto, riparata dal sole di luglio dal suo cappello a larghe tese e da un velo di mussola, e partì al trotto con una risata di gioia, burlandosi delle mie raccomandazioni di non andare al galoppo e di tornare presto. La cattivella non si fece vedere per il tè. Uno dei viaggiatori, il segugio, un cane vecchio che amava le comodità, tornò a casa, ma non c'era traccia da nessuna parte né di Cathy, né del pony, né dei 2 pointer. Mandai gente a cercarla lungo il sentiero e poi un altro, e alla fine partii io stessa alla sua ricerca. Al limite della tenuta c'era un bracciante intento a riparare lo steccato di un campo. Gli chiesi se avesse visto la nostra padroncina. «L'ho vista stamattina», mi rispose. «Mi ha chiesto di tagliarle una verga di nocciolo e poi ha fatto saltare il suo cavallo sopra quella siepe laggiù, dove è più bassa, ed è sparita al galoppo». Potete immaginare come mi sentì a questa notizia. Subito mi venne in mente che doveva essersi diretta verso le rocce di Penistone. «Che cosa succederà?» esclamai passando attraverso la breccia che l'uomo stava richiudendo e puntando direttamente verso la strada maestra. Camminai come se avessi dietro degli inseguitori, un miglio dopo l'altro, finché a una curva giunsi in vista di cime tempestose. Ma in quanto a Catherine, nulla, né vicino né lontano. Le rocce si trovano circa 1,5 miglia oltre la casa del signor Heathcliff, il che significa a 4 miglia dalla Grange. Così cominciai a temere che la notte sarebbe scesa prima che potessi raggiungerle. E se arrampicandosi fosse scivolata, riflettevo, e se si fosse uccisa o rotta le ossa? Mi trovavo in un'incertezza veramente penosa. Così, al primo sguardo, mentre passavo di gran fretta vicino alla cascina, sentii un gran sollievo nel vedere Charlie, il più fiero dei 2 pointer, disteso sotto una finestra, col muso gonfio e un'orecchia sanguinante. Aprì il cancello e corsi alla porta, bussando freneticamente per farmi aprire. Mi rispose una donna che conoscevo e che prima viveva a Gimmerton. Faceva la domestica lassù fin dall'epoca della morte del signor Earnshaw. «Ah», disse, «è venuta a cercare la sua padroncina. Non abbia paura, sta bene, ma sono contenta che non sia arrivato il padrone». «Allora non è in casa, vero?» ansimai senza fiato per la corsa e per l'ansia. «No, no», mi rispose. «Lui e Joseph sono fuori e credo che non torneranno per almeno un'ora. Entri a riposarsi un po'». Entrai e vidi la mia pecorella smarrita seduta davanti al camino che si dondolava su una seggiolina che era appartenuta a sua madre da bambina. Il suo cappello era appeso al muro e lei sembrava perfettamente a suo agio e di ottimo umore, tutta intenta a ridere e a chiacchierare con Herton, ora un robusto ragazzo di 18 anni, il quale la fissava stupito e pieno di curiosità, senza capire granché del gran fiotto di affermazioni e di domande che la sua lingua non smetteva di riversare. «Molto bene, signorina!» esclamai, nascondendo la mia gioia sotto un'espressione risentita. «Questa è l'ultima volta che esce a cavallo, fino al ritorno di suo padre. Non la lascerò più oltrepassare la soglia di casa, visto che è tanto cattiva, cattiva. Mettetevi il cappello e via, a casa immediatamente. Su, su, ripetei, venga a farsi legare il nastro. Che vergogna, a 13 anni comportarsi come una bambina. Infatti, si era strappata via il cappello e si era rifugiata accanto al camino, fuori dalla mia portata. No, disse la domestica, non se la prenda con questa bella ragazzina, signora Dean. Siamo stati noi a dirle di fermarsi, se no avrebbe proseguito per paura che lei stesse in pensiero. Ma Ayrton si è offerto di accompagnarla e io ho pensato che era una buona idea. La strada è brutta su per queste colline. Mentre noi discutevamo, Ayrton rimase fermo con le mani in tasca, troppo impacciato per parlare. Ma dalla sua espressione era chiaro che non gradiva la mia intrusione. «Fino a quando devo aspettare?» continuai, senza tenere conto della donna che si era intromessa. «Fra 10 minuti sarà buio. Dov'è il pony, signorina Cathy? E dov'è Phoenix? Se non si dà una mossa, la lascio qui, faccia come le pare.» «Il pony è nel cortile», rispose, «e Phoenix è chiusa là dentro. È stata morsa, e anche Charlie. Stavo per dirtelo, ma tu sei arrabbiata e non vale la pena che te lo dica.» Raccolsi il suo cappello e mi avvicinai per rimetterglielo, ma lei si era accorta che quella gente stava dalla sua parte e cominciò a saltellare qua e là per la stanza, correndo come un topolino, sopra, sotto e dietro i mobili, mentre le davo la caccia, rendendomi ridicola con il mio inseguimento. Ayrton e la donna ridevano, e lei rideva con loro, e diventava sempre più impertinente, finché io, al colmo della sopportazione, gridai: «Ebbene, signorina Cathy, se lei sapesse di chi è questa casa, sarebbe ben contenta di uscirne.» «Ma è di tuo padre, o no?» disse, voltandosi verso Ayrton. «No», rispose lui guardando in terra e arrossendo tutto vergognoso. Gli occhi di lei, che lo fissavano apertamente, lo imbarazzavano, benché fossero del tutto uguali ai suoi. «E allora di chi è? Del tuo padrone?» domandò lei. Lui si fece sempre più rosso, ma per un'emozione diversa, e con un'imprecazione si voltò da un'altra parte. «Chi è il suo padrone?» continuò quella piccola seccatrice, rivolgendosi a me. «Lui ha parlato della nostra casa e della nostra gente. Pensavo che fosse il figlio del padrone e non mi ha mai chiamato signorina. Avrebbe dovuto farlo, non è vero, se è un domestico?» All'udire queste parole puerili, Ayrton si fece scuro come una nube tempestosa. Io, senza parlare, diedi uno scrollone a quella curiosa che alla fine, grazie ai miei sforzi, fu pronta alla partenza. «Ora va a prendere il mio cavallo», disse parlando a un suo consanguineo, ma lei non lo sapeva, con lo stesso tono che avrebbe usato con un mozzo di stalla della Grange. «E puoi venire con me. Voglio vedere dove appare il cacciatore fantasma nella palude e sentire le storie delle fate di cui mi hai parlato. Sbrigati però. Che cosa c'è? Ti ho detto di andare a prendere il mio cavallo. Puoi andare al diavolo prima che io faccia da servitore a te», ringhiò il ragazzo. «Posso andare dove?» chiese Catherine sorpresa. «Al diavolo, sfacciata di una strega», rispose. «Ecco, signorina Cathy, vede in che razza di compagnia si è andata a cacciare?» mi intromisi. «Belle parole da dire a una signorina. La prego di non mettersi a litigare con costui. Venga, andremo noi stessi a cercare Minnie.» «Ma Ellen!» esclamò lei con uno sguardo sbalordito. «Come osa parlarmi così? Non deve fare per forza quello che gli chiedo? Tu sei cattivo. Lo dirò a papà, quello che mi hai detto. Vedrai.» Ayrton non batté ciglio a questa minaccia e lacrime di indignazione sgorgarono dagli occhi di lei. «Vai tu a prendere il pony», disse rivolgendosi alla donna, «e libera immediatamente il mio cane.» «Piano, signorina», rispose quella che aveva interpellato. «Non ci perde niente a essere cortese. Anche se il signorino Ayrton qui non è il figlio del padrone, è pur sempre suo cugino e io non sono al suo servizio.» «Mio cugino, lui?» gridò Cathy con una risata sprezzante. Sì, proprio così, rispose l'altra che l'aveva rimproverata. Oh, Ellen, non lasciare che dicano queste cose, continuò lei infastidita. Papà è andato a prendere mio cugino a Londra. Mio cugino è figlio di un gentiluomo. Lui non è... E qui si fermò e scoppiò a piangere, sconvolta alla sola idea di essere parente di quello zoticone. Zitta, zitta, sussurrai. Si possono avere tanti cugini e di tutti i generi, signorina Cati, senza che questo ci faccia danno. Ma non è necessario frequentarli se sono impresentabili e maleducati. Lui non è mio cugino, Ellen, continuò lei ancora più amareggiata, dopo averci riflettuto sopra, e si gettò fra le mie braccia per sfuggire a quest'idea. Ero estremamente irritata con lei e con la domestica, per le rivelazioni che si erano reciprocamente fatte, e non avevo dubbi che la notizia dell'imminente arrivo di Linton, comunicata dalla bambina, sarebbe stata riferita al signor Heathcliff, ed ero ugualmente certa che il primo pensiero di Catherine al ritorno di suo padre sarebbe stato quello di chiedergli spiegazioni sulle affermazioni della domestica a proposito del rustico cugino. Ayrton, che si stava riprendendo dall'offesa di essere stato scambiato per un servitore, sembrò commosso dall'infelicità di lei e, dopo aver portato il pony davanti alla porta per ringraziarsela, prese dal canile un bel cucciolo e, mettendoglielo fra le braccia, le disse di non piangere, perché lui non aveva voluto insultarla. Lei interruppe le sue lamentele, lo riesaminò in un'occhiata intimorita e inorridita e poi scoppiò a piangere di nuovo. Mi venne quasi da sorridere alla sua antipatia per quel povero ragazzo, che era un giovanotto atletico e prestante, bello di lineamenti, sano e robusto, ma vestito con abiti adeguati alle sue occupazioni quotidiane, lavorare alla fattoria e vagare nella brughiera alla ricerca di conigli e selvaggina. Mi sembrò anche di scoprire nei tratti del suo volto i segni di una mente dotata di qualità migliori di quelle di suo padre. Nessuno gli aveva mai insegnato a leggere e a scrivere, né l'aveva mai rimproverato per qualsiasi cattiva abitudine che non desse fastidio al suo tutore. Non era mai stata spesa una parola per condurlo sulla strada della virtù, né per metterlo in guardia contro il vizio. E da quanto avevo sentito, Joseph aveva contribuito al suo stato d'abbandono, perché fin da quando era bambino gli aveva dimostrato un'ottusa predilezione, lusingandolo e assecondandolo per il solo fatto che era il capo della vecchia famiglia. E come era solito un tempo accusare Catherine e Heathcliff bambini di far perdere la pazienza al padrone e di costringerlo a cercare conforto nel bere con quelli che definiva i loro empi modi, così ora addossava tutta la colpa dei difetti di Ayrton all'usurpatore della sua proprietà. Se il ragazzo bestemmiava, non lo riprendeva, né lo faceva per il suo comportamento, per quanto riprovevole fosse. Apparentemente a Joseph dava soddisfazione vederlo toccare il fondo. Ammetteva che era rovinato, che la sua anima era destinata alla perdizione, ma poi diceva che doveva risponderne Heathcliff. A lui sarebbe stato chiesto il conto del sangue di Ayrton, e questo pensiero gli dava un'immensa consolazione. Joseph aveva instillato in Ayrton l'orgoglio per il suo nome e per la sua stirpe, e se avesse osato avrebbe alimentato l'odio fra lui e l'attuale proprietario di Cime Tempestose, ma di questo proprietario aveva un timore quasi superstizioso e si limitava a esprimere i suoi sentimenti verso di lui borbottando insinuazioni e minacciandolo tra sé e sé. Non pretendo di conoscere nei particolari la vita quotidiana a Cime Tempestose in quei tempi. Parlo soltanto per sentito dire. Gli abitanti del villaggio affermavano che il signor Heathcliff era tirchio e che era un padrone duro e spietato con i suoi affittuari. Ma la casa, di dentro, aveva ripreso il suo vecchio aspetto confortevole sotto le mani di una donna, e ora fra quelle mura non avevano più luogo le violente scenate che ai tempi di Hindley erano frequenti. Il padrone Era di umore troppo tetro per cercare compagnia di qualunque genere, buona o cattiva, e lo è ancora. Ma a questo modo non sto procedendo con la mia storia. La signorina Cati rifiutò l'offerta di pace rappresentata dal cucciolo e reclamò i suoi cani, Charlie e Phoenix, che arrivarono zoppicando e a testa bassa. E allora ci incamminammo verso casa, tutti quanti di malumore. Catherine aveva detto a Ayrton chi era e dove stava andando. Gli aveva chiesto di indicarle la strada e infine, ammaliato, lui aveva accettato di accompagnarla. Le aveva svelato i misteri della grotta delle fate e di una ventina di altri luoghi bizzarri. Ma, essendo io in disgrazia, non mi venne concessa la descrizione delle cose interessanti che aveva visto. Comunque, capì che la sua guida le era piaciuta, fino al momento in cui lei aveva urtato la sua sensibilità parlandogli come un servitore e la governante di Heathcliff aveva urtato quella di lei dicendole che erano cugini. Poi il linguaggio che lui aveva usato le bruciava dentro. Lei, che per tutti alla Grange era amore, cara, angelo, lei essere insultata in modo così incredibile da un estraneo, non se ne dava pace. E io faticai non poco per ottenere la promessa che non sarebbe andata a lamentarsene da suo padre. Le spiegai che lui non era in buoni rapporti con nessuno a Cime Tempestose e che sarebbe stato molto dispiaciuto nel sapere che lei era stata lassù, ma insistetti soprattutto sul fatto che se avesse rivelato la mia negligenza nell'adempiere alle sue disposizioni, forse lui si sarebbe arrabbiato a tal punto che io sarei dovuta andarmene. Cati non poteva sopportare questa prospettiva e per amor mio mi diede la sua parola e la mantenne. Dopotutto, era una cara ragazzina.